Guarda che bello, Drago, la nuova app Super Mario. Cosa bisogna fare? Super Mario Monti. Dai, gioca su, giù. Giù, ma po- giù di nuovo. Cresce. Crescere giù. Forza. Dai, dai. Dove? Tassa. Come tassa? No, no, tassa. E pagare, no, dai. Tassa. Di nuovo. Pagare. No, di più di cosa? Pagare. Forza. Forza, sì. Allora, su. Contrario. Al contrario, giù quindi. Sotto. A sotto, sì. Giù. No. Avanti. Avanti. Dai, vado, vado. Pagare. Ma come pagare? Tassa. C'è la tassa. Ma no, vabbè, però, scusami. Pagare. Ma come pagare? Basta. È noioso. Forza. Forza, no, forza cosa? Tassa. Tassa. Vabbè, come? Tassa. Tasse. Pagare. No. Pagare. Ma drag. Ma l'hai rotto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Oh, dopo la prima lunghissima vera settimana di lavoro completa del dopo Natale, dopo Capodanno, dopo Befana, eccoci finalmente a un meritato venerdì. È venerdì. È sempre per scontato che il venerdì. È venerdì. Abbia il significato che ha per te e per cosa? Tutti in realtà. Ma Drago, gente cosa vuol che dire? Lavora anche al sabato per dire, non so, i vigili urbani, gli insegnanti, i commercianti. Vabbè, hanno ma negozio, il nostro zoccolo duro di ascoltatori. È gente da lunedì venerdì, no? Lunedì a venerdì. Il salumaio non ascolta Chiedo Asilo. Ma come, cioè, no? Ma chi anche se lo ascolta, di certo non si offende se ogni venerdì io mi lancio nel mio canto propiziatorio, penitenziale, giaculatorio e di speranza che fa. Venerdì. È venerdì. Happy hour. Il locale, la sera. Drago, cioè stami dietro, qua è una roba tutto cool, capito? E io cosa devo fare? Cool? Io tu fai il cool, va? Non sono tanto. Come no? Piena di figa. Venerdì. Aperitiva. Ci licenziano. Sì. Se andiamo avanti così, ma tanto è venerdì. E ora bambini, ricreazione. Ciao ragazzi, e saluta anche tu. Cosa? C'è anche Gildo, bambino aiuto. Alberto, siamo messi in difficoltà. No, perché? Sì. No, perché non si capisce. Allora, cosa vuoi? Allora? Io e Gildo volevamo sapere due o tre cose, no? Sì. Fare delle domande. Abbiamo delle curiosità. Sì, così. E... vabbè. Allora, i bambini chiedono perché. No, allora, perché? Prima era quella del gatto, no? Il gatto. Con chi parla? Allora, il gatto con gli stivali, no? Sì. Le gambe a lui gli ha divorate lo squalo assassino. No, ma cosa stai dicendo? Ma hai la febbre alta, parli con Gildo che non c'è. Poi lo squalo assassino nel gatto con gli stivali. Sono i conigli, lui fa le trappole per i conigli. Il gatto con gli stivali è chiaramente senza gambe, no? Ma perché? Sì, perché quegli stivali che porta, in realtà, cioè, quegli stivaloni, no? Sono delle protesi. Ma no, ma si chiamano gli stivali. Porta, no, non dà le gambe, mette le protesi come Pastorius, no? Come chi? Pastorius, no, non era quello che sono. Jaco Pastorius, il bassista dei Weather Report, grande bassista fretless, tutti armonici. Cosa c'entra col gatto con gli stivali? No, che suoni fate, ma no, quello che corre, no, quello che corre con le protesi. Ma no, ma quello non è Pastorius, è Pistorius. È Pistorius. Alla fine la differenza cosa c'è? Qual è? Uno è fretless, l'altro è legless, però se vogliamo giusto fare una battutaccia. Vabbè, dai, oltre. Less, niente. Comunque sto gatto. Le gambe come le ha perse? Ma ti ho detto che non le ha perse. A parte che non sono gambe, sono zampe quelle del gatto. E non le ha perse, no? Si mette gli stivali perché deve intortare il re, 20 deve apparire leghe sotto il mare, no? Gli stivali delle 20 leghe. Ma non si chiamano, vabbè, le leghe, che non deve correre, no? Vabbè, insomma, come più storto, c'ho ragione io. Comunque, lasciamo stare questa roba qua. Passiamo alla seconda, questi qui. Sì, lo do a tutti, che era Miranda Ragino, bidello. Quello sa tutto. Allora, vediamo un po', questa cosa è facile. Allora, è vero che la nonna di Cappuccetto Rosso, no? Quando è stata mangiata dal lupo. Sì. Era dal lupo, no? Sì, lo sa anche Gildo. Allora, nella pancia di un lupo cattivo? Sì. Lì poi si è trasformata in un mostro, a forma di serpiente, no? Serpente! Che serpente? Il serpente! Vabbè, serpente, avete capito, no? Sì, e allora? La nonna di Cappuccetto. È una specie di alien, no? Sì. Che poi è uscito dal di dietro. Dal di dietro. Ma cosa sta dicendo? La nonna, serpiente che esce, cos'è? Tipo una tenia. Questi sono i rumors tra i bambini. I rumors. Ah, ho capito, sono le leggende metropolitane. C'è chi dice che è sputato fuori dallo stomaco e chi dal di dietro, no? Va bene. Qui si confonde alien con Cappuccetto Rosso. Ma no, a parte alien non esce da dietro, esce dalla pancia, da davanti. Come voi non mi sapete dire niente? Cioè, no, Qui anche Gildo è attonito. Ma attonito. Sei attonito? Beh, vabbè, ma non capisco adesso queste cose splatter sulle fiabe, voglio dire, cos'è? Hai letto Bruno Bettelheim e l'hai interpretato male? Ma non so cosa è strano, guarda che sono le normali curiosità di noi bambini, no? No, perché però, noi siamo attratti dalle cose paurose. Ha ragione il bambino Alberto, perché è vero, guarda che al Noir Festival, anzi al Noir In Festival di Courmayeur, dove sta arrivando anche Befera, sta arrivando a fare i controlli proprio durante questo Noir In Festival. Però sempre in montagna. Sì, mi piace, vabbè. Comunque hanno perfino organizzato la settimana mini noir per i bambini, che fanno delle conferenze, film, giochi con la plastilina, tutti mostri schifosi, serpienti, e tutto per stimolare questo naturale senso della paura, perché pare che i bambini all'età di 7-10 anni così siano molto attratti dallo splatter, dalle cose schifose. È normale che il bambino Alberto faccia domande di questo tipo, cioè che il gatto con gli stivali è senza gambe, è Giacomo Pastorius, che la nonna in cappuccetto alien al contrario serpente di dietro. Allora, cosa c'è di strano? Ma non lo so, avevi potuto. Questo punto è un'altra. Facciamo la terza. Sì. Vediamo se. Vediamo. Questa qua è più scientifica. Sì. No. Allora, capo, sei tu, eh? Sì, quella del pozzo, Gildo. Ma quale Gildo? Ma basta. Bambino Alberto, dai, su. Magari ci dicono cosa. Cosa applaudi? Cerco di svegliare. A caso uno cade in un pozzo. Sì, pozzo. Un piccolo Alfredino. Finisce al centro della terra, nel regno delle scimmie barbute che si mangiano i bambini salmi strati. No, a parte che. Ma va. Il pozzo non può essere così profondo. Sarà anche roba della tua età, però è stufato. Ma come non è vero? Sei tu che fai delle domande, ma è chiaro che non è vero, no? Non è vero. Voi, io lo facevo per lui, no? Ma per lui chi? Ma scusate, voi a dirla proprio chiara, a dirla tutta, voi dovreste avere anche una funzione pedagogica, no? Chi lo dice? Non stare solo a far flanella, a far chiacchiere. No, flanella, noi siamo qui a fare una trasmissione all'asilo. Con i bambini, però. Ho capito. Beh, insomma, sì. Allora, dateci retta, no? Ma ti diamo. C'è anche Gildo che più nella pelle. Ci sono i vostri genitori, insomma, i tuoi genitori. Appunto, adatti, appunto. Addetti. Beh, allora vediamo la quarta domanda. No, che quarta domanda? Noi andiamo. Allora, senti, gliela fai a Gildo. Quarta domanda. Facciamo fai quella Gildo. Della quella bambini difficile. Salmistrati. Una facile che. Una facile! Kappa, Drago! Dai, che ce n'abbiamo un'altra? Sono andati. Vedi, alla fine è sempre così. Questi se ne vanno e non se ne fregano. Mica pensano che noi siamo bambini. Bambini! Bambini impressionabili, no? E quindi ci lasciano questi dubbi, no? Dei mostri, delle gambe del gatto con gli stivali, dove sono andate a finire, no? Lo squalo assassino! Pistorius! Pistorius! Poi quella lì, la roba di Pistorius, quella è grave, no? E quindi qui ci impressioniamo, tu poi, soprattutto, che sei piccolo e indifeso. Paura! E paura, no? Ma che stanotte vai a casa, e fai un sogno, fai l'incubo, no? L'incubo! Fai l'incubo? L'incubo! Che sogni di essere il lupo cattivo che ha mangiato la nonna? E la nonna dentro la pancia, no? Che si trasforma in un mostro a forma di serpiente, no? Come un alien, no? E si muove. E poi ti senti tutto pieno, no? E quindi senti anche che un movimento di... come un serpentone che si muove nella pancia, no? A un certo punto poi su di freddo, no? Su di freddo, radice proprio. E a quel punto poi ti svegli, no? Finito l'incubo? Finito! L'incubo sì, però ne è cominciato un altro. È perché ti sei cagato addosso, no? Per scrivere a questo programma radio dovete scrivere a chiedoasilo@radio24.it. Ma le invertite giuste, le LR? @radio24.it.